Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Venerdì 7 dicembre, Mario Monti ha annunciato la decisione di chiudere l'esperienza del suo governo. Una volta ottenuto il via libera definitivo alla legge di stabilità, venuti a mancare in Parlamento i voti del PDL a sostegno dell'esecutivo. Lunedì 10 dicembre, l'Italia ha visto salire considerevolmente lo spread tra BTP decennali e Bund tedeschi e la Borsa di Milano in netto calo. Nei giorni seguenti la situazione si è tranquillizzata, ma la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche è ormai iniziata. In questa puntata di Economia in Europa affrontiamo in particolare le reazioni dei mercati europei a questa notizia, raccogliendo i commenti di alcuni esperti in merito alle conseguenze che la situazione di incertezza della politica italiana potrà avere nei prossimi mesi sui mercati finanziari e sulle scelte che ne potrebbero conseguire da parte delle istituzioni europee. La decisione di Mario Monti di chiudere l'esperienza del suo governo, una volta ottenuto il via libera definitivo alla legge di stabilità, è stata ufficializzata venerdì 7 dicembre a borse chiuse. Vedremo cosa faranno i mercati, è stata la prima affermazione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E come si temeva, la settimana si è aperta con uno scenario preoccupante anche sul fronte finanziario. Lunedì 10 dicembre lo spread tra BTP e Bund decennali ha aperto ai primi scambi sui 343 punti base, rispetto ai 323 della chiusura di venerdì, arrivando poi a superare la soglia dei 350 punti, con il rendimento che è tornato a sfiorare il 4,80%. Tutte le borse europee hanno aperto in negativo e Piazza Affari ha sprofondato fin dai primi scambi, arrivando a perdere oltre il 3%, con le banche in caduta libera. L'Europa deve quindi prendere atto che comincia la campagna elettorale in Italia. Una campagna portatrice di incertezza anche sul piano economico. Sentiamo da Londra Giovanni Zanni, Director of European Economics di Credit Suisse, ai nostri microfoni proprio lunedì mattina. La settimana scorsa e poi comincia con un partito che è stato insomma un pilastro di questa strana maggioranza che decide di togliere il supporto a un governo che da parte di tutti gli investitori internazionali era visto come una garanzia di stabilità in Italia. Ecco, quindi questo è il vero cambiamento. E vuol dire che c'è incertezza e che l'incertezza viene anticipata rispetto a quello che sarebbe stato comunque il processo elettorale, ma che viene anche aumentata appunto per questa tipologia di partenza di questa campagna elettorale. Ora, se uno guarda la reazione dei mercati, direi che era completamente attesa, se vogliamo, questa mattina. Siamo a dei livelli abbastanza forti di aggiustamento, ma che sono ancora un ambito, se vogliamo, gestibile. Si tratta di vedere, secondo me, nelle prossime settimane se c'è una campagna molto violenta, molto aggressiva contro Euro, contro Monti, contro Merkel in generale, e se questa campagna porta a un cambiamento di quelli che sono i sondaggi. Nei giorni successivi la situazione sui mercati si è tranquillizzata, scongiurando le previsioni più pessimistiche. L'incertezza politica però resta e va ad aggiungersi alla fase recessiva che l'economia italiana sta attraversando, con le famiglie in difficoltà e sempre meno disponibili a risparmiare e investire il proprio denaro. Come potrà essere accolto dall'Europa questo periodo di incertezza? Continuiamo a sentire le opinioni di diversi esperti, raccolte nella giornata di lunedì 10. L'Italia, alla luce di queste nuove fasi di incertezza che si prospettano, potrebbe trovarsi nella necessità di chiedere gli aiuti della BCE? Sentiamo Vladimir Biasia, docente alla Facoltà di Economia dell'Università di Udine e partner di WV Advisor. La BCE continua a rappresentare, o meglio rappresenterà per il mercato, una sorta di garanzia sul fatto che comunque vada questa campagna elettorale, bene o male si dovrà ricorrere all'aiuto da parte del programma OMT per mettere a riparo il nostro paese da ulteriori aggressioni del mercato. Comunque lo spread rimaneva inserito anche ovviamente nella settimana precedente all'interno di un quadro tendenzialmente rialzista, nonostante i recuperi che si sono spinti sino alla soglia dei 280 punti base. E guarda caso, il ragionamento che aveva fatto Monti più o meno riprendeva quanto aveva espresso in campagna, alla sua conferenza stampa di insediamento un anno fa circa. E se voi ricordate, in quella conferenza stampa fece vedere un grafico all'interno del quale, un grafico con una tendenza rialzista all'interno del quale si muoveva lo spread, e il suo obiettivo era proprio quello di ridurre il differenziale riportandolo sulla base di quel canale. Grazie agli interventi, alle promesse della BCE, all'impegno della BCE di quest'estate, lo spread è sceso, diciamo, verso i 270-280 punti base, pur mantenendo sempre una tendenza positiva. Gli eventi delle ultime ore hanno riportato questa tendenza, anzi il differenziale, all'interno di questo canale rialzista verso il centro, e quello che diciamo noi è che il movimento può essere ancora governato in quadro di, chiamiamolo, equilibrio instabile, fin tanto che rimaniamo proprio sotto questa soglia tra i 60, oltre si aprirebbero scenari di varia natura. E non ultimo quello del fatto che in qualche modo potrebbe costringere l'Italia a chiedere l'intervento della BCE, come dicevo prima, e quindi blindare l'azione di governo prossima, futura, all'interno di un programma stabilito, prestabilito, sul solco, diciamo, degli orientamenti dell'Unione Europea e poi dell'euro stesso. I mercati europei ed internazionali hanno ormai una certa esperienza delle riforme e del governo Monti. Può essere questo il motivo delle tante preoccupazioni manifestatesi a inizio settimana con il balzo dello spread. Sentiamo il commento di Alberto Gallo, Head of European Macro Credit Research di Royal Bank of Scotland, lunedì al microfono di Simone Spezia. C'è da un lato un rischio che non ci sia continuità nelle riforme iniziate dal governo Monti. E questo potrebbe succedere anche se c'è una coalizione stabile alle elezioni. Dall'altro però c'è il rischio che aumenta che il PDL oppure insieme alla Lega, insieme ad altri partiti come il Movimento 5 Stelle possano bloccare del tutto queste riforme avendo una maggioranza al Senato. Direi che anche se i mercati non hanno letto tutti i dettagli della politica italiana, gli investitori ormai hanno una certa esperienza sulle riforme, sul governo Monti e su quello che invece non era stato fatto prima, e sono giustamente preoccupati di una rottura in questo delicato processo di riforme. Mi scusi, dalla lettura che ne dà lei di come si sono mossi i mercati oggi, ripetiamo, insomma, come dice Monti, poi alla fine non è, il tutto non è da drammatizzare, insomma, però ripeto, una lettura di quello che sta succedendo in queste ore, da quel che ci dice lei dobbiamo preoccuparci di qui fino alle elezioni addirittura, perché insomma se la preoccupazione è questa. Sì, il rischio è che ci sia più volatilità nei prossimi 2-3 mesi. La nostra opinione dell'Italia è positiva da un punto di vista strutturale, ha molti meno problemi rispetto ad altri paesi periferici come la Spagna, per esempio, che hanno dei buchi di bilancio sia dal punto di vista delle regioni e delle banche. Invece diciamo, in Italia le regioni hanno problemi ma sono più piccole, e così anche le banche sono più piccole, anche se ovviamente ci sono dei problemi. Quindi la nostra opinione è positiva, ma l'Italia ha dei problemi politici. Paradossalmente, dato il fatto che i problemi economici sono minori, c'è stato un periodo di mancanza di riforme prima del governo Monti, e questo ha portato a un accumulo di debito, di deficit, di problemi strutturali. Non c'è stato un riaggiustamento dei costi di produzione e di lavoro, quindi della competitività. Secondo noi sarà difficile raggiungere una soluzione durante i prossimi 2 mesi di campagna elettorale. Sarà difficile che Monti ritorni nello stesso modo in cui c'era prima, senza tanta pressione dei mercati sullo spread. È solo con pressione sui mercati e sullo spread che i partiti probabilmente si renderanno conto che c'è bisogno di continuare il processo di riforme. E per questa settimana, con Economia in Europa, è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.